Le balle piene a ricevere gente, solo che lavori a regalo, mai compreso? Lavori a regalo e allora io non regalo niente, è tutto lì il problema, altrimenti io sarei già andato via da qua, Massimiliano. Cosa pensi, che me ne sto, mi piace starmene qua con un cane rinchiuso dentro casa e me ne vado in campagna, però devo vendere questa. Il problema, è anche un altro. Il problema è che anche se vendi per quella cifra che tu avevi messo la casa, il problema è comprare una casa in campagna per quella cifra, capito? Dipende sempre dove vai, attenzione, perché da zona a zona già lo sai che cambia. Tu in queste zone qui con quei soldi prendi un rudere. Va bene, prendo un rudere, qual è il problema? Il rudere si finisce, non è un problema. Io 150.000 euro ho disponibili, cosa il gatto di Bugumparà in Chivi? Una villa con 150.000 euro nella zona tua, li punti, non compro una casa in campagna, ma stai scherzando? Ne ho visto una a Visilio di 120 metri quadri, 130.000 euro, finita. È buono allora, buono, è buono. Bravo, passa poco, tranquillo che si comprerà anche di più, è anche meglio. Visto la crisi che si sta, insomma, si sta per arrivare, tranquillo. A me guarda, non me ne fotte proprio niente, Vanni, io non mi sto lamentando di quattrini, sto solo decidendo che cosa fare, capito? Perché è inutile che io venda questa a due lire come la vogliono e debbo stare ad aggiungere altri soldi miei per comprarne un'altra. No, io voglio vendere questa e i soldi che ho realizzato comprarne un'altra, se no è un controsenso, allora mi rimango in occhi, poi PD a Sedinà, è lì il problema. Solo che ti ripeto, ribadisco, la voglio un regalo, capito? Perché il prezzo di questa casa inizialmente era 130.000 euro, sono sceso a 120, 120 non basta, sono sceso a 110, cazzo ira, laggio di Rigarà, ma rimango qua, non me ne fotte niente. Cazzo, hai ragione, però il problema è solo non ce n'è, non è che la gente la vuole, è che non vuole spendere, non ne ha e pretende, non c'è. Quanto è grande, quanti metri quadri sono, non me lo ricordo. 90 metri quadri, 90 metri quadri, c'ha tre stanze da letto grandi, due grandi, una insomma che non è piccola dove io ho la sala radio, il salone grande, la cucina, il poggiolo e il posto auto, che solo quel posto auto a me mi è costato 10.000 euro quando l'abbiamo accatastato, capito? Vabbè, il problema è le case, adesso al solito non c'è un buon mercato per acquistare, capisci? Quindi conviene aspettare, sia per vendere che per acquistare, perché comunque i prezzi stanno scendendo sempre, perché soldi in Italia c'è sempre meno, non è che non ce li hanno, no? Ma ce n'è sempre meno per comprare casa. Perché prima era un investimento da acquistare case, sai, investivi i quattrini nelle case, ma adesso non conviene avere nulla, conviene avere solo i soldi pronti e basta, poi al momento fai da fare, capito? Questo è il problema, ragazzi. Purtroppo è così. Poi comunque, come ho detto qualcuno, il condominio lo stesso non l'avrei mai comprato, è che mia moglie, se no l'avrei venuto anche io, qui non sarei andato, da qui. Tutto per capire come anzi riprendi la vedere a tu e cambia, fai cambio. Sì, dai, allora, cambio, faccio entrare a Daniele che ha breccato a poc'anzi, dai, vai Daniele. Ecchime, salutoni a tutti. Sì, saluto Daniele e poi vado. Io vanno i problemi in condominio non agio, Non sono di quelli che, perché il tetto è il mio, quindi non ne ho problemi di installare antenne, non ho mai avuto un litigio con nessuno, né per le antenne né per niente. Quindi questo è un ottimo condominio. Se ne fossero condomini a Sassari con la disponibilità che hai di montare antenne e di farti i cacchi tuoi, capite? È un bellissimo condominio, mi dispiace tantissimo lasciarlo. Però ti ripeto, ribadisco che se mi danno i soldi che io sto chiedendo la vendo, altrimenti non la vendo, perché io l'ho pagata e quindi non la posso regalare, tutto lì. Ciao Daniele, un abbraccio, vi lascio, ci sentiamo, ok? Probabile pure do Massimiliano, non adesso, ma più avanti, che mi tengo questa e vengo anche a abitare vicino a te, ti metto la portante col portatile, hai capito? Vabbè, fai così, Io già lo sai, faccio questa fretta appiccata dalla Ianna, sì. Se la butti, finisci un antennino dello Bozzatti, eh? Vabbè, io sono solo cani. Oh, Massimiliano, carissimo. Comunque il cane non è a riferito alla cosa, è che un condominio è sempre un corso, ci sono sempre, insomma, è un po' il corso. Quando si estinguono purtroppo il cancello, vai dentro, come me. Vabbè, comunque buonasera anche a Daniele, lo sento bassissimo, comunque, andiamo sempre. Brecchi per salutarvi, dai. Attento Claudio, ti saluto, dai. Ciao Massimiliano, ciao Vannino, ciao Daniele, appena entrato, Gianni Doppio Room, tutti gli altri che sono in ascolto. Giovanni da Porto Torres, se c'è ancora, suppongo di sì, in ascolto, io passo in QRT, dai, ho da fare adesso. Grazie per la chiacchierata, abbiamo fatto una serata intera di QSO, per cui va bene così, anche per oggi ci siamo divertiti. Riprendi pure Massimiliano, io ascolto il finalino di tutto e dopodiché chiudo, ciao! Ciao, ciao Giulio, allora dai, buona serata e buon proseguo di giornata, ciao ciao, vai doppio rum. Dai, ciao Giulio, ciao, buon proseguimento di serata, dai, ci sentiamo, buona carica quando la fai. Avanti Franco! Ciao Giulio! Oh, Simine, avanti Daniele! Ciao Giù, fatemi salutare a Giulio, ciao ciao! E ciao Daniele! Ciao Franco, scusa, ciao Franco, salutoni a tutti, ciao ciao Cla! Ciao carissimo! Ciao Claudia, ciao Giulio, ci ascoltiamo le prossimine, dai! Riprendi Massimiliano! Bombolino, buonasera! Ma quanti mai oggi non sei guidando l'ambulanza tu? Sono smontante notte io, Massimiliano! Va bene, va bene. Ascolta, ma non è che il coronavirus non te l'hai preso tu, no? Guarda, se non lo prendo adesso non lo prendo più, ne ho fatto uno anche ieri sera, anzi ieri notte. Ascolta, per capire, ma Sassari molti ce ne sono ancora dei tribusci? Bro, sembra essere diventato tipo il gioco delle dame, le metti da una parte, li porti dall'altra. Comunque no, non penso ce ne siano rimasti tantissimi, Massimiliano. Adesso da verificare questi tre o quattro che hanno pubblicato sul giornale, se sono realmente così. Va bene, va bene, allora a me è tanta fantasia sta cosa. Comunque adesso anche se muori di qualcos'altro stai morendo del coronavirus. Adesso è tutto lui. Tutto ciò che scapita a una persona, tutto da quello. Oh yeah, per carità, magari è una complicanza, ma è balistrana a me, ma a te sì. Non ti sto facendo ascoltare la televisione, che è Walter, stanno parlando da 5:25. Sbagliato microfono, rincoglionito mio padrino, cazzo, baccare dai. Sbagliato microfono mio padrino, intanto io c'è poco rincoglionendo, che? Figlio, cazzo, è a 300 metri da me. Infatti vedevo, ho sentito la sua voce, Gesù, cazzo. Ciao ragazzi, a dopo, un abbraccio. Ciao Cla, un abbraccio a tutti lì, famiglia. Ciao Claudie, alle prossime. Grazie, contraccambiato a todos. Ciao, ciao Cla, ci sentiamo, là. Nanni, a te ne immagineggi, cazzo, mi fate papi da culo muro. Ho successo anche a volte, ma è un tema di giornalino, tutto fatto il cazzo. settimana. No, veramente è lui che se n'è venuto qua e io c'ero prima di lui qua, capito? E ha trovato una buona zona. Sì, io abito 300 metri prima, là. A destra o a sinistra? Sempre in quella strada comunque, lì. Sì, sì, a destra scendendo, 500 metri, so. Non c'è da sbagliare, c'è una casa sul marrone chiaro, proprio sulla strada, là. Vabbè, ci sarà pure l'antenna, quindi lui c'è da sbagliare più, tanto se lo vogliono vedere dalla strada o no? Sì, sì, sì, già si vede dalla strada. Già si vede, non c'è problema. Ma beh, Fabri, riuscito ci sei a sistemare questa radio? Non ecco, guarda adesso un attimino, si è cambiato qualcosa? No, Fabri, sempre saturi. Ho fatto di tensione, ho controllato, l'ho regolato, ma è roba più seria. E chissà cosa cavolo. Non è voglia di una giocata. Comunque è sempre molto satura. Sì, sì, da parte mia sì, io ti sento così, eh. Poi, non so, in lontananza, io ti sento saturo completamente. Non fai, ma Fabri, ma è uguale, non ha cambiato niente. Comunque Fabri, se ti servono dei finali, questi dovrebbero andare a 7.06. Sì, tutte e tre. Ho corretto la corrente minima che era sbagliata, però continua a persistere. Poi non è che mi dice altro qua. Hai sentito Fabri cosa ti ha detto Vannino? Qualcosa, dimmi Vannino. Ti ho detto che ti capita a qualche 7.06 per le mani, cioè ti ha riportuti, ce ne ho tutti e tre, capito? No, non ne ho 7.06. Sì, ti ho detto se ti capita qualcuno abbiamo infilato. Ah, sì, sì. Visto che, cioè, non si sa mai. Sì, ho tutti e tre, però è quelli che ne vedi per i migliori, ho i 60 KF e i 60 VHF. Vabbè, comunque, sì. Quello che stai usando non è un presidente Lincoln, per caso. È un Lincoln, però esce compresso. Ne ho riparato uno poco fa e lo devo dare. Adesso ho questo in mano, però è uno di quei difetti strani. Cioè vai e trova cos'è. Un macello. Perché poi stava andando bene. Ho trovato giusto una tensione sbagliata. Per il resto sembrava bene. Allora, lei ha uno franco che con un microfono è così. Poi ha cambiato il microfono, ha messo un tanner più lungo, a metro, adesso mi ricordo che il microfono l'abbia messo e va bene. Ecco perché te l'ho detto. Stavate ieri, mi pare, stavano facendo le cose, Franco al posto. Proprio con lo stesso difetto, era stato schiacciato e si è cambiato il microfono, non so cosa l'abbia messo, ma comunque adesso è normale. Te la faccio fare quella prova se capita in radio. Eia, un attimino, altra cosa, cioè dice qua, capita anche quello, ecco perché, e mi pare stava dando pure il microfono originale, adesso me le ricordo, vabbè, comunque, quando hanno 30 anni, ho sempre detto, insomma, anche i componenti sono quelle che sono, perdono la qualità, è un disastro, Ti stavo dicendo, ti volevo dire Fabri, hai mai fatto la modifica al 140 per inserire lo squelci nelle AM e barre laterali? No, mai modificato. Quello non l'ho mai modificato, cioè quello è una rottura quando inizia a dare problemi sulle correnti. No, c'è stata una modifica, cioè bisogna togliere la piastra e così via. Adesso lo faccio, ne una di piastra, la voglio modificare e poi mettete la vetra a posto di questo. Non rischio di toccare questo. No, c'è proprio su internet, meno comunque, le squelce anche in base laterale in AM. Quello è comodo, farlo, non è che ci vorrà molto, un potenziometro, tanto qualche resistenza, non lo so, c'è già la modifica pronta. Bisogna impegnare la vista. Vabbè, ma io già lavoro con occhiali e caschetto. Beh, mi sa che iniziamo ad andare su e iniziamo a mangiare, almeno a cercare di picchiare qualcosa. Signori, ci sentiamo, ciao Fabri, ciao Massimiliano e Daniele, che la rimane. Ciao a tutti. Ciao Vanni, comunque ti porti dietro un sacco di rumori, sicuramente avrai le altre radio accese e cose del genere. Ok, va bene. Ciao Vanino, buona carichetta allora. E ci sentiamo nei prossimi, no? Avanti. Oh, doppio Ru, ci sei ancora? Ehi, ci sono e vi saluto, sono anch'io a mangiare. Vi saluto tutti cordialmente, saluto Vannino che sta andando via. E buon continuo QSO. Ciao a tutti, and per ma. Ma adesso sì, c'era qualche aria accesa, ma il rumore non lo penso da quella lì. Sì, mi dimentico sempre, c'è una luce qua per questa vetturina, che la fredda un LED. Infatti è una rottura lumbare, ma comunque, infatti ha detto, non si sente il rumore. Sì, c'hai un piccolo fischietto appresso, tipo un innesco. Sì, quello lo so, perché eccolo qua, dovrebbe andare via adesso. A posto adesso. Ciao e buonasera a tutti. Ciao Vanni, ci sentiamo, là. Avanti Daniele. Ciao Vanni, alle prossime dai, se coincide. Cava. E tu Massimiliano, riprese a lavoro? Ma noi non abbiamo mai mollato, la verità, No, abbiamo sempre lavorato senza mai fermarci. Caparroggio, l'altro giorno sono passato lì, mica sto uscendo da Olbia. E dobbiamo consegnare quel tratto prima di Meserio, segue il rettilineo. E quindi ci stiamo dando un po' dentro, va. Cava. Va bene. Chi c'è rimasto qua poi? Chi c'era? Natalino, chi c'era? Sembra andarci dentro, Ehi, Lugalier, qui c'è anche Fabrizio, vabbè, stava facendo cosa. Non so, io non l'ho sentito Natalino. Natalino c'è. No, mi è sembrata la voce sua poco fa. Lugariello. Sono entrato poco fa, là, ero stato a farmi un giro giù alla rotonda. Una passeggiata con il bambau. E adesso ho aperto un telefono che devo cambiare il connettore, là, devo smontarlo adesso, tutto, e staccare il connettore. Facci book. Adesso mi ha fatto, ti ripeto, poco fa, un difettuccio l'S9, no? Era spento, l'ho acceso, è iniziato a partire da solo il frequenzimetro. Ho girato pure, vabbè, con la rotellina col pomellino nel 10 e si è bloccato lì. Adesso non lo sta più facendo. Poi qualche segno brutto. Cos'era? Ma è troppo tempo fermo, era Massimiliano. No, io veramente delle radio già le accendo spesso, va. No, era... diciamo, vabbè, oggi non ho acceso niente. E poco fa l'ho acceso e faceva questo difettuccio qua. Ha fatto per 2-3 secondi e poi si è fermato. Un attimo di smarrimento avrà avuto. Sì, vabbè, là, questo era... adesso ce l'ho già un bel po' di anni. Comunque va sempre bene come radio. Ok, va bene, quindi Lucarie, ce n'era gente giù a Platamor? Abbastanza. Ma tutti con la museruola era? E poi c'è stato guinzaglio? Non tutti. Io per esempio non me ne ho messo, basta un distante dalla gente, me l'ho messa solo per andare a prendere la gelato e basta. E che cazzo dovrebbe la regla, vai occhi? E adesso da domani ci possiamo spostare come vogliamo, senza autocertificazione, possiamo andare dagli amici a mangiare, a fare feste, andate in macchina in museruola, che andare i chivi, baci e abbracci. Non si capisce più niente, ma comunque vabbè. Gappa. Ti ha mandato qualche messaggio, Costanzo? Sì, ho dato il messaggio per quanto riguarda che doveva passare, poi l'ho visto dopo, ma l'ho risposto. L'ho visto dopo il messaggio. Siccome io quando mi riposo, il telefono lo metto silenzioso, poi me ne dimentico di rimettere mai il vibro, la suoneria, lo muovo in busciacara, e poi se me lo sono accorto lì alla rotonda. Va bene, stamattina eravamo assieme, stavo facendo un po' di saldature di questi microfoni in uscita, qualche filo staccato, ne aveva un po', diciamo, e gli ho fatto qualche piccola saldatura, là. Sì, gappa, là, riprendete voi che qua, cioè, sono un po' impegnato, là, sennò porto danno. Andavè, ok. E beh, Fabri, trovato qualcosa? Forse sta facendo roba. Va bene, Daniele, mi ascolti bene? Ehi, a Massimiliano, forte e chiaro. Va bene, funge tutto. Io non so se tu mi ascolti sempre uguale, come sempre. Sempre, sempre uguale, preciso identico, va bene, ottima radio, va benissimo. Io sto usando adesso un'altra antenna che ho montato ieri mattina, un po' più bassa della manto, voilà. Però ho visto che funge bene, c'ha ottimi risultati. Ottimo. Va bene come segnale, Massimiliano, forte e chiaro, sì, qua 9:20, pulito, tranquillo. KK, anda bene meda. L'ho fatta a 6,15 m, perché le ho accorciato un pochettino il radiale che ce l'aveva tutti i ruzzi. E quindi va bene lo stesso. L'ho provata prima di metterla sul tetto. C'ha zero stazionarie, cioè non si muove l'ago dall'1 al 40, e sul 45 ne ha 1, boh, sarà 1,2, 1,3, non arriva a 1,1, là. E ultima, va bene, buona antenna, e adesso vediamo un po', va. Sì, Massi, va bene, mi sembra che si arriva anche leggermente più forte del solito. Non lo so, adesso passo all'altra radio e vediamo se mi fa questo difetto di frequenzimetro. Spengo questo e passo con l'altro, ok? Cava Roger, adesso sono qua, dai. Allora, avvieni un po', Daniele, questo è l'altro. Calato il segnale, un pelo, ma già si è sceso. La radio è buona. Sono sceso? Di poco sì, Massimiliano. Abbassa, cosa c'hai acceso? Io? Non c'è niente acceso qua. Per rumore senti? Non è acceso niente. Ah, ecco. Va bene, ok. Rientrato sono, qua non è acceso niente, Massimiliano, va bene. Allora, forse magari lì c'è qualche watt in più, capito? Daniele, anzi neanche qualche watt in più, anzi qualche watt in meno forse, qualche picco di modulazione in più c'è di là, va? Sai cos'è, Clark? Modulati arriva al suo segnale che c'ha con l'altro, a posto, l'ho guardato adesso. Quello devi stare attento, che a me mi ha fottuto la prima volta, poi gli ho detto lasciami la portante muta e sono uguali, modula e con i picchi di modulazione arrivano tutte e due allo stesso livello, Daniele, capito? È lì che devi stare attento. Sì, a primo acchito ti frega, è vero. Poi adesso modulati, no, è a posto Massimiliano, il segnale è identico. Massimiliano, riprovi, infatti raggiungi il tuo microfono, vuoi già dire, per un buon immuratro? Lascialo quello, farò andare un po', se non ti piace, vedi tu, Claudio, può andare, no, non è male. No, questo c'è anche il lock, è comodo, c'è la levettina, tiri il lock, a differenza del, molto semplice, a differenza dell'MB più 5 che devi spingere a destra, a sinistra, questa bassa la levetta, come il lock del 60, capito? Infatti non lo sto toccando, mi gioco già bene. No, mi sono ascoltato, dai, la modulazione è buona, certo la timbrica è diversa, però già è presentabile. Ehi, può andare, non c'è problema, qua ti sto dicendo. Può andare, sì. Ho ammassato appena un latte, da 1,5 adesso. Ok, no, può andare, qua. Poi vabbè, giustamente anche Lucchio vuole la sua parte, no? Quello lo puoi utilizzare, magari vedi con quel polmar, come ti chiama, lo puoi usare lì, che esce bene, e anche qua esce bene, e qui ti rimetti il 60 che è una sagguba. Massimiliano, qua, vi lascio a Daniele, io cambio, no? Lo stacco da qui, metto l'adattatore, è completamente diverso anche sull'Airbex, è un altro tipo di microfono. Non ha niente a che fare, perché qua ti ricordo che c'è il processore inserito, c'è un altro sistema di Mickey Gain, di microprocessore, balle varie, quindi a questi livelli. Se io te l'attacco là, tu mi dici, cazzo, ma questo è un altro microfono. Ma l'hanno già detto, è completamente diversa, c'è molti più acuti, è un bel forte lo stesso, però è diversa la timbrica. Riprendi Daniele che cambio, lo metto il turner più 2 sul baracchini con l'adattatore. Sì, un secondo, Claudio, e Massimiliano, che è arrivata mamma, vi do una cosa, e arrivo subito. Non ti preoccupare, io sono qua, io però non ce n'è problema. Vai, Claudio, cambia, fai, non c'è problema, sono qua. Guarda, non c'è molto da perdere tempo, guarda. Stesso microfono, questo è con l'Elbex. A primo impatto, questo. questo subito che ce l'ho in alto. Questo è l'Elbex. Guarda la radio come cambia, Massimiliano. Oh, la cagubba, no. C'è un medio acuti qua. L'hai visto? Hai visto quanto è molto, molto più forte? Devo abbassare, perché se col K lo tengo per dire a 2, qua devo mettere a 1. E prova a vedere se ti elimina un po' di questi acuti che hai. Guarda, così a 1, così ce l'ho a 1 il microfono. Così lo devi usare qua. Te lo sto dicendo, perché sennò è troppo forte. Sì, va bene, così a 1 va bene. Anche che... è quello, un microfono tutto particolare, si sa che è acuto quello, comunque come capsula, come cosa, cioè, è acuto come microfono, capito? Quindi quello va bene comunque, Claudio. Però l'Elbex con più 5 mi piace di più. Sì, ma sono uguali, non è che cambia, la timbrica è quella, mi Massimiliano. Non venuta la va. Allora io sto dando 5 watt. Adesso tu guarda il segnale, quanto è con 5 watt modulati quasi 10? E c'ha dei bei picchi di modulazione installati. Il telefono, aspetta. Vai, sono qua. Ciao Massimiliano, ascolta, facciamo una piccola prova, un attimino. Falla, vai, tanto c'è Claudio che ha il telefono, vai. Volevo provare a aumentare leggermente qualche watt. Vai, fallo. Vedi un po', adesso aumento, 1, 2, 1, 2. Così è basso, così sono da 3 watt, guarda un po', 1, 1, 1. Così picchia. Come adesso? Allora aspetta, così sei controllato, giusto? Sì, con 3 watt qualche cosa, dai. Sì, quasi 9,10. Come radio com'è? 1, 2, 1, 2. È buona, devi abbassare un pelino il microfono. Ecco qua, adesso il microfono è abbassato, 1, 2, 1, 2. Così è buona la radio, buonissima. Un bel forte. Oh, guarda adesso. Prova. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, prova. Sempre ottima radio, segnale 9,25. E la radio è buona lo stesso, sì. Sì, la radio è buonissima. È buonissima. Prova a metterlo a 5 watt e poi agganci. Allora, vediamo un po'. 1, 2, ancora sono a 5 watt. No, 4 watt sono. Ecco, adesso sono a 5 watt. Ok, prova a agganciare. Vedi un po', 1, 2, 1, 2, 3, 4. Prova. Adesso sì, quasi sul 25, quasi sul 30, sì. La radio è sempre buona, ma con picchi positivi ti arrivano picchi negativi, io Massimiliano. Aspetta che cambio, vado con l'altra, che qua non lo vedo bene. Prova, Gavi. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 1, 2. Portate bianca. C'hai, già va in positivo, c'hai meno picchi di modulazione, però già va in positivo. Quanti watt sta dando quella Gigino? Allora, adesso sta andando a, aspetta un attimo, dunque, aspetta, diciamo 50 watt. 50 watt, e sei quasi 9,30. Senza distorsione, senza niente, va sempre già, pulito. Sì, è buono la radio. Ok, adesso abbasso. Attimo le regole stazionarie, però. Aspetta un attimo, vediamo. Le stazionarie salgono a 1 e... Allora, parlando, scendono. uno che strano. Invece portate bianche vanno a 1, a 1 e 3. Sì, vabbè, con 50 watt va bene, 1 e 3, 1 e 2, 1 e 3 va bene, dai. E tu fai una cosa allora, per essere proprio perfetto, mettilo con 3 watt, sganci un attimino il lineare, lo metti con 3 watt, agganci il lineare e lo ricontrolli a vedere se scende nuovo un pelino o rimangono 1 e 3. Dunque adesso senza, regoliamo lo stazionario, vediamo un po'. Dunque stazionario ce li ho a 1 e 1, così normale. E c'hai 3 watt adesso? E c'ho 3 watt, sì. Sì, sì. No, 5 watt c'ho, 5. No, portatelo a... perché c'hai meno picchi di modulazione, capito? Portatelo a 3 watt, 3 watt e mezzo. Ok, 3 watt e mezzo. Va bene. Ok, prova a agganciare il linearetto, guarda se salgono molto le stazionarie. Vediamo un po' se c'è qualche picco positivo e modulazione in più. Vediamo un po'. 1 e 4. 1 e 3, dai. 1 e 3. Vabbè, watt una quarantina? Watt, vediamo un po'. 40, sì. Precisi. Ma voglio, lascialo così, vabbè, lo puoi usare in città con 3 watt e mezzo, così, ti ascoltano tutti, tanto da dove sei tu, poi quando ti capita che ti serve, glielo dai un colpettino. Ehi, adesso Santiago quanto? Sei quasi 9,25, ma ci vuole un pelo. E lascio così. Sì, lascialo così. Chi è, Daniele? Eccile! Ehi, Daniele, c'è Gavino anche, non so se lo ascolti, eh. Ciao Gavino, ben sentito. Ehi, a come mi arrivi da quelle parti? Qua, forte e chiaro, Forte e chiaro, sei 9,25 abbondanti. Guarda ora, Daniele. 1-2, 1-2. Fai un altro passaggio, vedere che l'ho distratto un attimo. Guarda ora, Daniele, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sì, sei quasi sul 3 del 30. E che va bene, no? Avanti, Max, Messina. Cioè, con 3 watt ti arriva a 9,30, non ammala. Allora, con la pastiglia quanto? Non lo so, ma si vede qua, sta arrivando forte, non so neanche che zona sia. Guarda ora, Daniele, guarda ora. Ti lascio la parata bianca, dai. Si è aumentato un pelo però, poca roba, però siamo lì. Comunque zona monte, dai. Quando sgancia a 9,30 lo stesso rimane. Minima la differenza, Massimiliano, non so se è lo smitter o che cosa. Io sto usando l'87, quindi non so quanto sia affidabile anche questo smitter. Oh, sono rientrato. Ehi, guarda Gavino, sta facendo un paio di prove. Prova, Gavino. Oh, Clarin, ciao. Ascolta, come ti sta arrivando? 1, 2, 3, 1, 2. Sì, sul più del 30, vai. E ora normale, 1, 2, 3, 1, 2. Allora, praticamente vai, da 9 più 10 a 9 più 20 qua. Da me si ferma, sganciato all'inizio del più del 30. Esatto, anche qua. Becco per un controllo, grazie. Avanti per i controlli. Attenzione, dottore. Danno un controllo radio, Claudio. Va bene, sto ricevendo col barracchino, ma va bene. 5. Che ho cambiato il mic gain, eh? Va bene, ottimo. Microfono palmare. Ma di quale radio, di quella là? Del 525. 5 a Casotto, immagini, boh. Ah, tu cerchi di tirare minacciandomi, io no, io ti ho detto che andavi sempre bene, quindi. E vabbè, ne ho altri 3 da provare, non c'è problema. Il problema è questo, volevo sapere, siccome ho aumentato l'amplificazione della radio, volevo sapere se va bene con l'amplificazione questo qua. Guarda, se un microfono normale è più che ottimo, 10 e lode. 10 e lode. Chi c'è? Anche Massimiliano? Già ci sono, sì, Fino. Sì, arrivi benissimo, va bene anche quel microfono. Mi ha trovato la radio modificata. Sì, Massimiliano, ciao a tutti comunque. L'HR5005 con il microfono normale suo, ho tolto il più 5 e ho messo questo. Ottimo, va benissimo. C'è Daniele e Gavino, loro sono un po' più lontani, vedi un po', Daniele, vai, per Tino. Ciao Tino, ben sentito, buonasera. Ogni tanto esci dall'uovo, ciao Daniele. Ogni tanto ne faccio un vivo. Bene, ciao Daniele, ciao, mi fa piacere, dai. No, vabbè, era giusto per provare, perché non riesco a capire cosa cacchio sia successo, ho fatto le connessioni nuove, Claudio. E praticamente, quando lo inizi, mi parte già importante, schiaccio la portante e mi cambia il canale. Vabbè, della serie, fai come vuoi, Lì bisogna vedere se c'è qualche filo da invertire, piano piano ti devi fare quel lavoro, perché quella radio è molto delicata, essendo un digitale è molto delicata, piano piano. Il problema è che abbiamo Fabrizio tutta la sera con quella radio tua, che praticamente fa sempre lo stesso difetto, però Gianni Bugabedi, avvi tu. Vabbè, se no ce la cestiniamo, ce ne facciamo un'altra, cosa vi dica? Ma infatti, piace nel radio, basta fare così proprio. Vabbè, quello è un regalo, quindi. Va bene, dai, lasciamo questo, il palmare a me, mi rompo le palle a sapere il palmare, ma vabbè. Ecco già voi che ti dica. Io lo stesso sono contrario ai palmari, adesso ho procurato anche un più 2, bellissimo, già hai visto, funziona magnificamente bene, lo sto usando qua perché volevamo vedere con Massimiliano la differenza tra i baracchini e l'HF, va bene anche qua, dai. Poi Massimiliano, faccio un passaggio agganciato a vedere se succede qualcosa. Vai, fate prove, sono qua, non c'è problema. Mi devi dire, questo segnale com'è? Quanto è? Questo è quasi 10 watt. 9, sei 9. 9, adesso è agganciato. Adesso è agganciato, circa 70 watt modulati, dai. Passa ai 9,15, qua. Passa ai 9,15, ed è in 70 watt, 80 watt, 90 watt modulati, ed è in terza marcia. Mettila in quarta, in quinta, lasciala in quinta, ora di nafutti. Adesso in quinta marcia, 120 watt modulati, ha cambiato qualcosa? Sì, ho aumentato anche la radio. Addirittura, ho aumentato anche la radio. E il segnale quanto è? 9,20, ci arriva? Sì, 9,20. Si incrementa parecchio allora. Qua passa 9,30, 33, 35 quasi. Abbassa la potenza, cambio! Luciano, Dusci, quindi Massimiliano da 9 a 9 più 20 è buono? È buono, sì. Ma non è che tende di più 100 watt, ragazzi, 120, sono 130, vabbè. Ok, avanti Daniele. Cava, già funge Claudie, già funge. Allora lasciamo stare, giusto per divertirci col baracchino, come dice qualcuno. No, ma adesso lo metto nella potenza che avevo prima. Bravo, fallo scaldare un po'. Vale un rugo. Esci subito, visto, non ti preoccupare. No, l'ho rimesso in terza marcia, lo tengo sempre io, vai. Tanto è giusto per dare qualche watt in più al baracchino, vai. Niente di particolare. La modulazione Massimiliano rimane stabile, vero? Sì. Cazzo Gavì, c'ho sto Turner più 2 da vetrina, guarda, che mi hanno regalato, ma è uno spettacolo, veramente. Lo sto provando così, a intermittenza, sulle varie radio, ma non cambia niente. Adesso sto usando il 7000, il Polmar o Massimiliano. La radio com'è? Sempre uguale? Allora, questo è meglio dell'Airbex, se stai usando il Turner più 2. Meglio dell'Airbex. Cosa mette usa l'airbag, se no ho cambiato adesso, anziché l'airbag sto usando il Polmar, sempre il tonno più 2. Ehi, ma poco fa l'ho provato il tonno più 2 con l'airbag, giusto? Sì, Massimi. Oh, con l'airbag non mi piace molto, con questo si addice di più. Ma me lo immaginavo, sai, mi dicevi così, perché questi microfoni sono nati proprio ai tempi di queste radio, con l'Inuit, Polmar, Perception, tutti che si vece di quegli anni lì. L'Airbag, anche se è una radio vecchia, però è più avanzata rispetto a questa, capito? E appunto per quello, capito, è appunto per quello. Con questa qua sicuramente si accoppia meglio. Accoppiamo e puntelliamo? Ma sono qua, questo qua, è a voglia. E non c'è anche il più 5 per le altre. No, il più 5 lo lascio sull'Airbag, se il termine più 2 lo uso sul Polmar. A posto, questo volevo capire. E allora, qua va bene, cosa dici tu, Tino? Di lusso. Guarda, io adesso provo una prova con un più 4, con quello che mi hai detto tu. Voglio vedere se cambiano le connessioni, cambia qualcosa in questa radio, dai. Lo voglio provare, battimi bianco, ciao. Cazzo, poca forza sta radio, isciuga. Studiamo, ma c'ha un culo questo con il microfono normale, il mio non esce, cazzo, blu. Tu dalli a me, te lo metto, dalli a me e io te li faccio, dove ti dica, blu. Blu, stasera Fabrizio ha provato, ma cazzo, ne andiamo contro con questo standard, ma che microfono è, l'ho detto, questo microfono l'ho dato io a te, non userò bene. Si è assoltato, sembra un microfono preamplificato. Guarda, questo non ti faccio una diretta se non ci credi. Questo è il classico microfono dell'apparato, cioè dalla scatola piazzato. L'ho piazzato perché io ci cestino direttamente dentro il cassetto e i palmari a me non piacciono, per carità, non sono più abituato al tavolo, appoggio la mano e schiaccio. E questo è per necessità lo sto provando, non è che adesso sto provando a mettere il più 4, vediamo un pochino se riesco a fare connessione, perché ti spiego, non vorrei aver fatto danno alla radio, nel senso che dico una stupidaggine, dico una cosa che mi è successa stamattina, stavo provando un amplificatore, anche se questa radio era senza antenna, ho schiacciato per salutare, però era accesa, non lo so, non vorrei che abbia causato danno alla radio stessa, anche se era senza antenna, capito? Mi auguro di no, ma può succedere, mi auguro di no con tutto il cuore, però può succedere, stai attento quando fai queste manovre, spegni tutto, già non sei un profano su queste cose, è molto pericoloso. Adesso metto il microfono normale sull'airbag, il microfono degli Uniti sull'airbag, vediamo se c'è bene Massimiliano. Sì, poi anche perché stavo provando il 450 con un 300 watt, perché, quindi. E vabbè, se è schiacciata per poco non succede niente, là. Avanti, Dani, un Gavino, là, riprendete. Fai riprendere la Gavino, dai, che è lì in parcheggio. Oh, Massimiliano, stavo dicendo, adesso mi sono ricordato, riguardo a quell'alimentatore, che la parte posteriore deve essere libera, perché la ventola deve respirare, capito? Deve prendere aria. Se per caso c'è un ostacolo dietro, a parte che diventa rumorosa, e poi non ce la fa a dissipare bene, capito? Oh, Massimiliano, guarda questo microfono normale dell'Inuit, guarda a vedere se va bene anche all'airbag, com'è? Mettilo nel tuo cassetto. Lo sapevo, ma se lo provo a con. Vai, fatti scendere qualche lacca, ma vai, per cortesia. Ma è brutta l'acqua. Allora, Gavi, tornando al discorso di un alimentatore, io l'ho provato stasera così, l'ho messo dove c'era l'altro, non rumoroso, di più. Adesso, domani, che ho un pochino più tempo, magari dopo rientro dal lavoro, lo metto in un'altra posizione, proprio libero, all'aria aperta. Vediamo un po' se continua a fare questo rumore di vento, così no, già rimane indietro, e lo uso con qualche altra cosa, qualche baracchinetto, qualcosa così, va, ok? Ehi, cazzo Massimiliano, c'è Roberto sul 23 con l'Elbex 9, sento appena appena un fruscio. Un fruscio. Ho acceso nuovamente a riprendere il coso, il polmar, battimento totale. Che c'è sul 23? Roberto Quadrato provvedente con un visino d'oio, con Walter. Allora, poco fa sicuramente stavo usando un bel di potenza perché un po' mi stava dando fastidio. Infatti a Daniele gli ho detto: Daniele, abbassa appena appena qualcosa perché ti stai portando dietro la modulazione del Walter. No, ma io non lo... qua non me ne dà fastidio a me, la verità, ma sicuramente non sto usando molta potenza, se no mi dà fastidio. No, vabbè, prende più colpi con lineare così agganciato Roberto che io da lui sicuramente. Però sentivo questo fruscio, allucinante, va bene, ok, e quindi sono costretto a usare quello lì. Vabbè, dai, adesso poi ripasso col K, tanto che ora già, cazzo, sono già 8:30, fra poco abbiamo, ragionavamo su QG. Va bene Massimiliano, allora puntelliamo, lasciamo tutto così. Va bene Antonio, alla grande, perché? Va bene, come ho fatto io col Turner più 2, che lo sto usando adesso col Polmar, lo spezzone, perché poi quello lì c'ha l'attacco 8, capito? Quindi va bene alla grande. C'è anche Massimiliano, senti bene Antonello? Sì, Santiago 7, radio 4, non glielo do 5 perché è un po' bassino. Oh, Antonello, alla grande, perfetto, io lo ripeto, sto usando il Polmar 7000 con il Turner più 2. La ricezione è bellissima, ti ascolto molto molto bene. Un attimino, va con QTH piccolo, c'è anche Gavino e Daniele, Tino. Sì, adesso le diamo il cambio a Tino e vai per Gavino, ti vai. No, Tino non riprende, Gavino riprendi tu, vai. Sì, a poco fa è entrato, mi sembra di averlo ascoltato. Tino, ci sei? Sì, ma forse si è spostato al canale 23 che c'è Walter. Ok, Antonè, io sto usando lo stesso microfono, però anziché usarlo col connettore 8 sul cable sul 440, lo sto usando su un Polmar 7000DX, che praticamente è un base vintage, 23 canali, capito? Vai Daniele. Certo, Gianni, ti ascolto, adesso ti ho sentito. Dove sì? Io ho messo la modulazione, ho detto, ma non mi ha cambiato il microfono, invece sei col portante, sì. Bene, fatto è chiaro, ti ascolto, sì. E infatti sei 9:35 il segnale, che è forte, è chiaro, sì. Arriva anche qua, basso, ma già arriva. Gianni, ti ho detto che arrivi anche qua, basso, ma già arrivi. Poco fa stava parlando cose, non ti ho sentito. Già arrivi, già andavè, tutto fabbrolo. Vediamo un po' Daniele se è rientrato. Daniele, no, Dino, no, Massimiliano. Qua sono appena rientrato, là, ho sentito Gianni di sfuggita. Ehi, già, ti ascolto. Vabbè, di segnale diciamo che non ne hai quasi niente. Forse uno, non lo so, però ti sento di radio un po' bassino, ma ti ascolto, va. Ecco, adesso magari sicuramente ti stai spostando perché sei salito a Santiago 2, Santiago 5 quasi sei qua, anda bene, là. Va bene, comunque ti ascolto, eppure siamo abbastanza lontani, va benissimo, vai, chi c'è ancora qua, vai qua, fa girare il tubo. KK, no, già arriva anche qua Gianni, segnale quasi zero come te, poi è salito a 2 anche da me, però la radio è abbastanza comprensibile, dai. Va bene, no, mi sto puntellando, non si vede, sto facendo spazio, così lascio il più 5 sull'Elbex e il più 2 qua sul 7000 e basta, poi rimetto l'MC60 al 440 e finiti giù. Ogni radio ha il suo microfono, mi dispiace per il DAC perché ogni volta che devo usare il DAC devo cambiare il microfono, non ne ho altri da tavola. Il DAC, le abbini sempre un microfono da tavolo, ci vuole, o te lo cerchi magari un altro microfono, se si trova qualcosa di buono in giro. Allora domani intanto alle 11 c'è appuntamento dal barbiere, passo via 4 novembre, se me lo va a metà prezzo quel microfono che ha dato Robertino, per cui già le torno a Marzia, ma non è 40 euro? Se me lo va 40 euro me lo compro nuovo. Chi me? Daniele, ti ho chiamato, riprendi. Mi sono spostato un attimo che ho avuto una bassa. Si stava ascoltando, Clash, e voi io c'ho un Tanner. Se si deve abbinare a quel DAC. Io non lo sto usando intanto. Ma Daniele, lo posso anche abbinare. Se a te non lo stai usando, però se ce la cambia la connessione io non li uso perché il DAC è micidiale. Con lo spezzone mi fischia, devo stare col microfono basso basso. Quindi se va bene la connessione, va bene. Se no gliela cambio la connessione. Sì, almeno così te lo usi solo per lui, capito? Rifà la connessione solo per lui. Va bene, Daniele, quando ci vediamo, magari domani se sei... o al limite se sei di servizio, mettitelo in macchina. Magari ci vediamo lì e me lo passi. E lo attacco al DAC, tolgo la tastiera da lì, perché ci ho messo la tastiera, se non c'era lo spazio, perché c'è il monitor del computer sopra il DAC, capito? Con un panno sotto. Anzi, con i feltrini l'ho messo, perché il panno non mi biazia, così non graffia il coperchio. E guardo, magari c'ho culo e funziona col DAC. Se non funziona, le inverto le connessioni. Perché c'ho lo spezzone, che è quello spezzone che abbiamo usato, Massimiliano, il cui l'ho prestato anche a te. Se lo attacco, anche con l'MB più 5, no? Se lo tengo l'MB più 5 basso basso, a quel punto lì lo metto il microfono normale. Sì, ma se ti dà il carne, fatti dare il carne, una della futi, le dai, cazzo, te lo fai vendere, così ce l'hai il burro, stai lì a romperti la scatola, fai le connessioni giuste, lasci quello. Sì, vabbè, metto d'accordo con Daniele, non ce n'è problema. Adesso mi metto d'accordo, Daniele, domani ti chiamo, se c'hai 5 minuti liberi, come sei messo tu domani ad esempio? Domani c'ho le 12 qua, dopo le 8 eventualmente te lo posso salire. Dopo le 8 di sera, e alla grande, allora mettetelo in macchina, quando hai finito il turno ci vediamo, ci fumiamo una cicca, ci facciamo due chiacchiere e me lo dai, così lo provo. Se le connessioni sono giuste, meglio così, se sono da cambiare gliele inverto, Daniele, e lo uso. Cavale Rogero, va bene, è che devo salire, no, l'MB più 5 c'ho io, aspetta, mi sto confondendo, perché tanto non ne ho mai avuto. Ma a me mi balestano, stavo per dirti, non ho mai tolto una parola alla bocca, io Turner a te non te ne ho mai conosciuto. Guarda che tu usavi l'M500, che poi non ha più funzionato, non ha già compreso Bagosa, e non sappiamo neanche che fine ha fatto quel microfono, ti ricordi che te l'aveva trovato? Però tu c'hai l'MB più 5, se c'hai l'MB più 5 è meglio ancora, a me piace l'MB più 5 su quella radio, capito? E funziona molto bene. Però ti ripeto, se le connessioni sono uguali, le lascio così, se non sono uguali non ne metto spezzone. Allora, quell'Expander 500, a te l'hai volato per caso? Sono andato a te e ce l'ho ancora su. No, no, Daniele, col DAC a me mi avevi dato, che te l'aveva dato Walter, un M500 che non ha mai funzionato. Perché poi c'è anche uno, dovrei avere l'Expander 500. Tu guarda cosa trovi per il DAC, guarda cosa trovi. Se hai l'Expander 500, va bene, Expander 500. Se hai l'MB più 5 o più 4, meglio ancora. Così ce li ho tutti col più 5 io, il microfono, le radio vintage, capito? Caparroggio, hai trovato quello stile... vecchio che c'aveva da tavolo, che c'aveva il coso in alluminio, però c'aveva il flessibile con la capsula piccola. Sì, non ha mai funzionato, poi l'ho attaccato su una radio e addirittura si è bruciato il circuito di alimentazione, non ho capito perché, vabbè, non so manco dove vai, se è dentro l'armadio o se c'è la giampata, non lo so, devo controllare. Tu comunque controlla se c'hai o il più 5 o il più 4 oppure questo Expander 500 per il DAC, così lo provo, Daniele, ok? Mettitelo in macchina, quello che trovi mettiti in macchina e poi domani sera dopo che porto il cane ci sentiamo. Capare Roger, Claudie. Però mi ricordo se ci voleva la capsula o che cosa, vabbè, poi lo vedi tu. Sicuramente no, l'Expander 500 deve essere ancora su, se non trovato ce l'ho su insieme all'altro, sono tutti e due lì. Faccio di bianco, Ehi, ragazzi, adesso ripasso a Massimiliano. Sì, ma anche se ci manca la capo, se la sei da mettere a posto, poi Massimiliano, di capo, già me la procura lui, no, non ce n'è problema, già lo mettiamo a posto, va vai Massimini. Ehi, ehi, ragazzi, là, già siamo qua, finché rimaniamo. Ce l'ho già, la capsula ce l'ho già anche di quelle buone. Non c'è problema, per la capsula problemi non ci n'è. Non avevo dubbi, non ci vediamo giornali di chi si goce. Cuccia cassette o Daniele, che ogni volta che si mette a fare pulizia, noi so quando eravamo in quarantena, si butta a fare pulizia, da una cassetta hanno bugato dentro il radio. Sì, vabbè, ogni tanto trovo qualcosa. Il cilindro magico è Massimiliano. Ah, vero, vero. Guarda, c'avevo una 48 con un trasformatore da 24 a 12, e questa era 48, era quella col, sai, quella con la cassa dorata, i primi proprio alla 48. Dentro un coso ce l'avevo, dentro un beauty case di quelli morbidi, ed era dentro una casettina dove tengo tutti gli attrezzi, quella casetta che c'ho fuori, là. Dove tengo tutti gli attrezzi, chissà da quanto tempo c'era, fatelo conto. Sì, sì, va. Funzionante? Funzionante alla grande, e dava da 5 watt a intorno ai 20-22 modulati, perché dopo che ho fatto un po' di ore gli avevo fatto cambiare anche il finale a quel cavolo di 48. Peccato, ma meno male l'hai recuperato in tempo. Eh sì, e vabbè, mi hanno trovato. Tu cosa ti è rimasto? Non c'è niente da vendere, no? No, io c'ho tutto a nuovo che avevo fatto l'anno scorso, Massimiliano. Vabbè, mi ricordo questa cosa qua, ma poi di cosa... C'avevi qualcosa di musica da vendere forse, ho venduto altro. Di musica? Cos'è che stavi vendendo? Qualcosa di casse, forse, roba del genere, No, stavo vendendo l'impianto del fuoristrada, ma non lo vendo più adesso. Io mi ricordo una cosa così, no? Va bene, ok. Davino, ci sei, vuoi riprendere? Forse è allontanato, no? Tino, che fine ha fatto? Il 23 se n'è andato, no? Tino c'è, il mio padrino nel canale 23 sicuramente è andato lì, va bene. Sì, Daniele, rimaniamo d'accordo così, dai. Già lo sai che non c'è nel problema, quando è qua è come che sia lì. Così lo provo, lo uso e rimane attaccato lì. Se riesco con Massimiliano, che lui ce ne ha di queste capsule e altre cosette, a metterlo a posto col microfono, così ce l'hai già pronto, capito? Non c'è problema. Camale Rogero! Sì, Claudio, non c'è problema, intanto per tenerli fermo, almeno tu le fai viaggiare, è tutto. Ma quella foto non me l'hai fatta avere di qualcosa, no? Di quel microfono, dove agganciarmi il positivo e negativo per la batteria di quel microfono palmare, no? Allora, guarda, ho sentito Stefano proprio stamattina, gliel'ho chiesto, mi sono dimenticato di dirtelo, se non me lo chiedevi mi sarei dimenticato. Quel microfono non ce l'ha, l'ha dato a uno di Urbia per usarlo col baracchino, però mi ha detto appena due minuti va da lui e le fa la foto col telefonino e me la manda. Va bene, non c'è problema allora. Era giusto per vedere dove agganciarmi con la corrente, mi capito, non sa mai che sbagli e poi fa danno. No, non ti preoccupare, gliel'ho detto, mi ha detto non ce l'ho io, se no te l'avrei mandata adesso la foto, capito? L'ho dato a un praticamente allenatore di Urbia che si sentono anche in 27 lì. E gliel'ha prestato perché non c'ha il microfono per far andare il baracchino. E mi ha detto appena lo vedo vado, le faccio fare una foto a lui, me la faccio mandare e te la mando su WhatsApp, così ce l'hai. Va bene, ok. Va benissimo, adesso sembra che non stia più scivolando questo frequenzimetro. Tanto l'ho già steso, è come stato a viaggiare a Zura. Addirittura, guarda il viso, l'ha pigliato buonissimo. No, vabbè, sono contento io che almeno ho i baracchini con i suoi microfoni e niente, mi da 1060 l'ho già collegato normalmente al 440 e va bene, tu mi stai dicendo Massimiliano di puntellare così è tutto a posto, l'Airbex c'ha il suo microfono e il Polma c'ha il suo microfono, va bene. Perfetto, seppur riesci a farti la parte CB e la parte HF separato, come stavo dicendo, una parte dall'altra, ti viene anche una cosa bellina. Massimiliano, tu mi pare che eri venuto qua, no? Quando c'era dall'altra base, hai visto? Stretto, non puoi aprire il vaccone, non puoi fare, puoi passare dietro per i cavi e una rottura di balle. Non lo so, sto decidendo Massimiliano, credimi, sto decidendo, però come è messa adesso, se ti mando la foto, va benissimo, è ordinatissima, le radio sono in fondo vicino alla finestra, in vintage, quelli uno sopra l'altro, mentre il DAC è all'inizio della porta, dai, per capirci, capito? E quindi va bene, insomma c'ho spazio, se